Radici di gramigna, sei, no, sei radici di gramigna, non ti preoccupare, tu sei tu e noi non siamo tu. Però dico, radici di gramigna, sei. Quindi, sono venuti pure a controllarci al partito. Hanno detto tutto a posto, stiamo andando benissimo. Vabbè, Mr. Duster Crazy, cioè voi non lo sapete, ma lui non vuole suonare. Infatti mi ha detto, non posso suonare dopo quando se ne sono andati tutti. Sicuramente non vuole parlare. Non vuole parlare. Vabbè, ma già che sta suonando, lo so. Esatto. No, però abbiamo Sciamina che sta là, freme, dice, mo ce n'ha mai a bambina, cosa? Quindi mo dobbiamo mettere due per. Dobbiamo mettere due per. No, allora, ma perché li abbiamo invitati? No, ma per senza niente, perché comunque per fare i podcast, comunque uno deve tenere da. Allora diciamo, chiama a quello, un po' a quello, e il partito dice tutto a posto, tutto. No, vabbè, c'è questa intervista che noi abbiamo trovato perché sono dei ragazzi che alla fine, aria interna e aria interna, si sono cercati di raccontare, hanno usato sempre i social per bucare un po' quel velo di lontananza che c'è tra sto famoso città e la, no? E quindi io cercando ho trovato questa bella intervista e c'è questo pezzo che si vedono più di frequente nelle città i sound. Noi invece abbiamo voluto portarli fuori nei contesti metropolitani. Quello che condividiamo è la voglia di trovare dei luoghi in cui suonare, diversi dal solito bar o dalla discoteca, in modo da rompere quell'abitudine al main stage che sta condizionando il modo di vivere i live e le occasioni di incontro tra le persone. Ma io non lo so se l'hanno copiato da qualche parte, però. Parlano veramente bene. Non c'era ancora. Prima dell'intelligenza della demenza artificiale. Restiamo fuori dagli standard del commercio della musica. Il nostro è uno strumento di diffusione di valori. Investimenti economici, qualche sacrificio in falegnameria e nuovi dischi da ascoltare per migliorare la selezione e provare il suono. Ashamina è il nome che deriva dalla yoshamina, l'alcaloide principale dello stramonio, che è l'erba del diavolo usata dalle Janare tra l'Irpini e il Sannio per confondere la mente delle persone e attrarle nei loro antri. Il nostro sound, dice Piero in questa intervista, si chiama così proprio perché vuole creare un effetto di spaesamento lontano dal palco, un impatto anche fisico sulle persone che arriva dai bassi e dall'aria che si sposta. Aspetta ancora. Non fa così. Aspetta ancora. Propaganda. E Shamina Sound, e ci dicono che ci dobbiamo raccontare, no? E noi nel nostro raccontarci ci mettiamo molto in sicurezza. È nato proprio così perché siamo tre membri molto insicuri che cerchiamo di rilassarci facendo un po' questo, sì? Collezionando dischi, abbiamo fatto casse, cose, e ora continuiamo a raccontarvi. Ci piacciono sicuramente le cose nuove, etichetta nuova, Ritmo 45, Joe York e Martina. Perché Franz è una sirena, ancora non se l'è permessa. Oh yeah. Original Style e Shamina Sound System. Noi insomma nasciamo penso 10 circa, non lo so se sono già 10, però quasi 10 anni di tanto, sì. E insomma, nasciamo prima di tutto per portare un po' di reggae music con le quattro casse che avevamo tra le case, garage, in giro. Eravamo a tre di noi, no? E Matteo forse è stato il primo a buttare un seme, visto che parlavamo di semi prima, e nel suo vario modo di mettere da parte una cosa i soldi, ha deciso di comprare legno di betulla per i pannelli necessari per fare due scoop bins, e li ha tenuti là un sacco di tempo. Penso che nel frattempo abbiamo conosciuto a Camillo, io andai in Inghilterra, ci innamorammo ancora di più. Prima parlavamo di avere l'occasione di incontrare queste cose, perché io penso che un po' viene tutto dall'emulazione. Quindi, ma 2012-2011, non... sì, quasi 10 anni fa comunque. E insomma, ci siamo ritrovati soprattutto dopo che sono tornato dall'Inghilterra. Ed entrambi stavamo in una delle nostre open desk serate che organizzavo nel mio garage, e si passò tanta musica quella sera, e noi abbiamo deciso che probabilmente non avevamo voglia di sentire tanta musica, ma tanto tanto reggae. E lì lo volevamo sentire bene, come forse non ci stava piacendo in quel modo, nonostante avevamo messo tutte le casse nostre, avevamo approcciato a tante cose. E lì è nato Eshamina Sound System come nome. Inizialmente non l'abbiamo mai fatto, però Camillo cacciò sto logo che si fece fare, che rappresentava lo scivolo dello Scoop Beans, e voleva provare a proporre 10 serate da fare in giro, sperando che qualcuno ci facesse fare un gruzzoletto di soldi per poter poi comprare i coni, le viti, la roba che ci serviva per il legno che aveva Matteo. E in parallelo io, con quei 4 squattrini che mi ero fatto in Inghilterra, avevo fatto i 2 piccoli hog per poter cercare di tenere una cosa almeno per nel garage. E insomma, queste serate non le siamo riusciti a farle in quel modo, ma ne abbiamo fatte tante di nostre, provando a fare festival, cose così, e un po' di gruzzoletto l'abbiamo fatto, e alzammo la prima torre di Eshamina. Quella ci siamo divertiti un bel po', veramente un bel po', e il resto lo racconto alla prossima Dubsite. You're doing what's right. Lies I come home with me, trust, you know that I would worship you, Wow, perché a me mi piacciono le sirene, sì. E, questo disco etichetta Yes King, quindi Sir Re, e David Inside, quindi il diavolo che abbiamo in corpo. Provo a raccontarvi il diavolo e l'erba del diavolo che abbiamo in corpo noi di Ashamina Sound System, sì. Prima session che abbiamo fatto l'abbiamo fatta a Pesco Pagano per una serata chiamata No Stress. Poi non entro nel merito dello stress, però fu veramente molto stressante e ci ha formato questi vari eventi che organizzò il compagno Moreno. E lì in quell'occasione ci trovavamo con Terra, noi veramente quattro casse, e loro fortunatamente l'avevano fatto il sound che raccontavano di fare e decidemmo di mandare tutto insieme. E da lì abbiamo cominciato a capire, a concretizzare quello che volevamo, perché di fatti avevamo solo quattro dischi e finimmo che buon Matteo si è dovuto spendere con il suo computer, perché mi ricordo proprio veramente di aver avuto il nulla in quella serata. Però ci siamo divertiti, avevamo finalmente un nome e siamo andati un po' avanti così, continuando a fare pure anche altre cose e concentrandoci sul fatto che un festival, il campeggio, la natura poteva avere un riscontro positivo, soprattutto se poi lo abbinavamo alla cucina e un po' di militanza sulla questione di cosa è far festa al giorno d'oggi, che è una cosa un po' complicata. Noi abbiamo scelto una strada molto difficile, non abbiamo scelto di comprare il classico controller su Amazon, scaricare le classiche canzoni su YouTube e fare feste da compleanno ovunque in Irpinia come funziona ora, e nemmeno abbiamo scelto di relegarci in alcuni posti che per mantenere dei sound ci ospitano occasionalmente in alcuni anni, e non abbiamo una yard che ci permette di fare dei gruzzoli. Quindi in sostanza abbiamo deciso di auto-organizzarci tutto dall'inizio fino alla fine e di essere inclusivi soprattutto. Difatti dopodiché ci siamo formati ancora con il Reggae Pubblica, e dove un po' in parte abbiamo cercato di partecipare al senso politico che si poteva fare sul territorio, al quale poi ci siamo un po' distaccati, che purtroppo di fare politica con la musica al giorno d'oggi nessuno più ne ha voglia, e cosa molto importante ma trascurata, e questi spazi non ci sono più nei nostri borghi. La musica è per fare i compleanni, torno a ripetere. E quindi abbiamo fatto questa cosa, essendo inclusivi ci siamo subito sentiti nell'onere di dover invitare Spandex, e quindi in sostanza abbiamo condiviso poi da quel momento in poi tante yard con loro e anche occasioni di vivercela bene, no? E colgo l'occasione per salutare Ciro, se mai ci sta ascoltando, ci ascolterà da Milano, sì? Che sta in gabbia, proprio in gabbia. Original Style, Yes King, Devil Inside. I'm blocking out my heartstrings and other things. Everywhere I go, I hear you. We'll be right back. Ciao a tutti, io sono Serena la Sirena. Sono... Allora, innanzitutto voglio ringraziare un sacco la famiglia di Gramigna, la famiglia che si è ingrandita ultimamente. E, anche io sono parte di Aisciamina, della famiglia, della family di Aisciamina, che da lungo tempo, non sappiamo dire con esattezza quanto, vive e lotta insieme a noi. E, nulla, mi passava per la mente un pensiero che nella nostra esperienza decennale, a questo punto quasi, ho notato e poi è cresciuto sempre di più questa riflessione, che nel nostro vissuto personale in diverse zone, quindi dall'Inghilterra a Roma, a Napoli, che è stata casa mia fino a un anno fa praticamente, ho notato una forte differenza tra quello che viene organizzato, e io ci tengo a dirlo che non sono una grandissima esperta della cultura musicale, mi piace la musica reggae, però sono più riflessiva su altri aspetti, come dire. Quindi la cosa che ho notato è che in città, in tutte le città, Napoli in questo caso, organizzare un evento, una festa, mi viene da dire facile, tra virgolette, nel senso che comunque sicuramente la gente, la partecipazione è più ampia, la cultura musicale è forte, soprattutto a Napoli, a Bologna, come dicevamo prima, in queste città dove la reggae music vive da tempo. Quindi per organizzare un evento basta la musica, il sound system, chiaramente, la gente appassionata, che seppure è una situazione di nicchia, comunque viene vissuta da tante persone in città. Rispetto a quello che facciamo noi nell'entroterra irpino, è che deve per forza abbracciare anche altri aspetti, da quello culinario all'organizzazione di attività varie. Per questo noi ci siamo diretti sull'organizzare festival, eventi che non solo permettessero chiaramente di montare sound system, di creare relazioni sotto questo punto di vista, ma di toccare aspetti importanti come la genuinità di quello che mangiamo, che beviamo, che è quello che, tornando al discorso di prima, ci permette di salvarci un po' nell'entroterra, come dicevamo prima con il buon Crispino, come ci salviamo noi in Irpinia? Mangiando e bevendo, detto con simpatia, però è la semplicità probabilmente quello che ci salva, la semplicità in quello che mangiamo, quindi nell'ortaggio, nel cibo genuino che portiamo a tavola dall'orto, e anche la semplicità nelle emozioni che viviamo chiaramente, e nei pensieri e nelle riflessioni che facciamo. Quindi non ci dobbiamo fare troppe pippe, perché in Irpinia c'è poco da fare. Un abbraccione. To the power of the Christ, Jesus Christus. Now you're bingy chanting, yeah. Rastafari chanting. Yo, yo, what we say? Warriors, now's the time to take your stand. Naya Bingi beat the bass and the kettle drum. Light the fire key and send a vibration. Earthquake, lightning, thunder, fire and brimstone. Ancestral messages that have been passed down in the the melody of the tongue, power of the word sound. Navigating our course that is spiritually bound, manifesting physically as a shield all around. There is power in the word, so Rastafari keep chanting. Yeah, yeah, power in the word, so Rastafari keep chanting. Yeah. Pray for the redemption of the afflicted people. Pray for an end to all this wicked and evil. Pray for your salvation in a this perilous time, and for forgiveness of sin, of all transgressions and crimes. Utter out your prayers in commune with Creator. Better do it now and don't you leave it till later. Remember your Creator, El Shaddai is greater. Rastafari is the mighty. Yo! Power in the word, so Rastafari keep chanting. Yeah, yeah, there is power in the word, so Rastafari keep chanting. Yeah, chant, Naya Bingi chanting. Is the boss. Practice prayer whilst in motion, otherwise you'll pay the cost. The penalty for not praying every time, you'll suffer loss. Just try, move more smart than fast. There is power in the word, so Rastafari keep chanting. Yeah, yeah. Power in the word, so Rastafari keep chanting. Yeah, yeah. Prayer warriors, now's the time to take your stand. Naya Bingi beats the bass and the kete drum. Light the fire key and send a vibration. Earthquake, lightning, thunder, fire and brimstone. Ancestral messages that have been passed down. Se bisogna parlare di missioni, e qual è la missione di Ashamina Sound System, secondo me è un lungo discorso da fare, veramente lungo, sì, perché penso che sia fatto più che altro di incontri. Penso che a noi molte volte ci ha cambiato anche mentalmente e come visione i vari incontri che abbiamo fatto. Quindi viene da citare già tutta l'esperienza del Rassegale e la vita mo ci vuole del componente Camillo che era lì dentro, quindi abbiamo passato diverse serate a fare critica di chiacchiere così tra amici, come diciamo, questa traccia di protezione del mondo, perché in qualche modo lo volevamo fare, però non lo volevamo fare giusto per, ci volevamo dare dei motivi, creare dei contesti, perché la festa deve averlo, come appunto diceva prima Serena, dovevamo legarci a qualcosa che dava la differenza, ripeto, al solito barretto col classico DJ, la musica di YouTube, il whisky di Seganenza, il gin autoprodotto, non prodotto però, e cose così. E quindi ci siamo voluti un po' distaccare da questo, e in un momento in cui questo lo facevamo tra l'Ariano Folk Festival, i vari eventi che ho proposto nel mio paese, è arrivata la pandemia che ci ha un po' distaccati, però parallelamente ci ha anche dato motivo e modo di continuare con il sound. Difatti tra pre e post pandemia abbiamo fatto altre casse, abbiamo investito però il cambiare il preamplificatore, quindi cose che per noi sono motivo di orgoglio, perché appunto farle dopo X serate, X contesti che hai sostenuto tra i vari amici che hai avuto e le varie cose, è motivo di soddisfazione ogni volta che suoniamo raggiungere quel pezzo, grazie anche a chi in questo momento forse ci ascolta e altri che spero un giorno ci ascolteranno e sorrideranno quando dicendo. E insomma, quindi questo contesto noi che l'abbiamo trovato è soprattutto sul cibo, e difatti subito abbiamo legato pure con i ragazzi di Spandeca in merito, e difatti noi abbiamo fatto tanti festival, ma alla fine la Yard era sempre molto simile, perché quelli che volevamo sentirci erano i nostri sound, però con umiltà, con molta umiltà, e cercando di parlare con i vicinati dove potevamo disturbare, con chi ci ospitava, e cercare di fare questa cosa con molta armonia, anche se spesso tocca spiegare sempre tutto un po' dall'ABC, perché come dicevo questa cosa parte molto dall'emulazione, quindi sul nostro territorio non c'è mai stato prima ed è difficile, e al giorno d'oggi, da quando abbiamo cominciato con le prime casse, ci sono altrettanti sound come Spandeca, ci sta Oni Militant Roots, ci sta Fetson Quarto Sound, che sono tutti sound che in un modo o nell'altro abbiamo messo anche noi una vite, abbiamo dato anche noi una pacca sulla spalla, oppure detto oh, io ma come stiamo andando. Boom boom boom boom boom. Allora, mi collego un po' anch'io a quello che si stava dicendo. La pandemia ci ha sicuramente portato un carico pesante che ha creato distanziamento, come ci vuole, distacco tra le persone, soprattutto poi in questa scena. Però in realtà in parte mi viene anche di ringraziare il periodo della pandemia, che ha portato la gente un po' a uscire dalle città e a venire da noi in Irpinia, agli eventi che abbiamo organizzato subito dopo la riapertura della situazione sociale, eccetera, e con questo evento che in particolare si chiama Weekend Rural, si è chiamato Weekend Rural, che abbiamo svolto per 2 anni di seguito, ho visto molte delle persone, degli amici, delle compagne, delle sorelle della città di Napoli e anche più lontani, dalle Marche, dal Lazio, venire in Irpinia, probabilmente perché c'era bisogno di aria in quel periodo, c'era bisogno di spazio e anche di vicinanza fondamentalmente tra le persone. Quindi rispetto a questo mi va di spezzare una lancia in favore di quel periodo. La nostra terra effettivamente un po' è l'evento che abbiamo organizzato, un po' ha creato questo tipo di accoglienza con le persone che sono venute a trovarci. Comunque l'aria e gli spazi in Irpinia ci stanno sempre, tutto l'anno, quindi vi aspettiamo anche ora che la pandemia non c'è più. Yes, yes, mi viene da girarlo, perché questa è veramente una what a situation, sì? Perché è molto hard fare le cose. Thank you. that's a situation. Them a catch you in a curfew. What a sufferation in a ghetto. Them a rob, them a loot, them a shoot. Them one like a gangster. Them a rob, them a loot, them a shoot. In a you area. Situation, sì, e mi va di raccontarvene una di situazione, sì. Quando stavamo al secondo weekend, a una certa lì avevamo mandato 5 sound tutti sotto, verso le 11 scende, io stavo alla porta, scende un petto di persone dal paese che dicono: oh mamma come si sente, ma che avete mandato là sotto, un rave party? E in realtà no, non penso che lo era, ma in realtà sì, lo era. Dovevamo chiedere i green pass, dovevamo fare sai quante cose che dovevamo fare, che avevamo deciso di non fare perché era troppo difficile per realizzare tutto ciò. Però paradossalmente è andato a finire che dopo un generatore che si era semplicemente fermato e un meccanico serbo improvvisato in inglese siamo riusciti a risolvere questa situazione. Il tipo del posto che per quello stesso generatore mi aveva rotto le scatole, che diceva faceva troppo rumore, era troppo grande, ma quanti kilowatt state usando lì sotto, che state facendo, a fine serata mi è venuto vicino e mi ha detto: wow che bello, hai reso il mio posto un posto internazionale. Tenamente, yeah. Mi sei in aditenamente, yeah. There's a holy pastor in the ghetto. Tell you there's a holy pastor in the ghetto. Then they are Kingston, they are in Porto. Also up on Madrid or in Toronto. Don't you know there's a holy pastor in the ghetto? Holy for good music come out of the ghetto. Just like Bob Marley, he was born in the ghetto. Yes, Peter Tosh, he was born in the ghetto. The great Ugo Minor, he was born in the ghetto. All of them broad and them born in the ghetto. So it's the time we go and give the ghetto man a chance. It's the time we go and give the ghetto man a chance. Got them under enough for separation. Them are living under tribulation. Can't you see? There's only pastor in the ghetto. Tell you there's a holy pastor in the ghetto. Just like you, Roy, you still are checked in the ghetto. The man called King Tubby used to mix in the ghetto. Yes, Bunny Lee, he used to be in the ghetto. All of them born and raised in the ghetto. Dads and moms who also grew in the ghetto. Life's not easy when you get in the ghetto. You have to stand up to survive in the ghetto. Cause life's so rough, wrong way in the ghetto. I tell you each and every ghetto man a star. I tell you each and every woman they are star. I cold rice and beans every day, yeah, no nothing. Yes, them a fi go and rush just fi get some. Cause there's no way out when you there in the bottom. Ooh, seems like you still picking up the cotton. Yes, these people, them a always forgotten. Time fi do something, oh, nothing, no nothing. There's a ghetto day in a inner city, in a any town or in a any country, you know. I bet no nice, I bet this no easy. I seems like feed them a life and no pity. So what is it all the time to go and give them a chance? Yes, let them come in and make them jump on prongs. Give them the mic and let them rock up and dance. Give them some love if you are into romance. There are no style like the ghetto style. No one here, there are no rock like the ghetto rock. No, no, there are no dancer like the ghetto dance. Oh no, there are no songa like the ghetto songa. God tell you there's only pastor in the ghetto. Poopa tell you there's only pastor in the ghetto. So you better give them an helping. I'm just a begging and helping. Bungerly girly, there's a holy pastor in the ghetto. Poopa tell you there's only pastor in the ghetto. No for them alone, how to play in the ghetto. Ask them alone now to sing in a ghetto. No for them ears, them suck in a ghetto. While others never really found a way out of the ghetto. But I tell you each and every ghetto has a star. I tell you each and every ghetto has a star. So I must break down the barrier. I know any coolie man who is a loaf down. Some of them are one born super duper. We must get them getting out of this slum. International. Is your song go international? I shall in a original European bass line. Is your sound in a the radio majors wicked and white? Is your gone international? Gone international. Is your sound playing the city? Is your sound is rural? Then say Shamina play international. Just play in the radio, in a sound system style. This your sound play na wicked and a wild. This your sound international. I Shamina sound international. This your sound in the radio international. Yeah, Shamina the wicked and a wild. Playing international, let up on your side. La gente arrenta radio in a sound system style. La gente ya montagna in a bascia la città. Si trema tutta valle, si verna a Shamina. Is your sound around international? I Shamina go out national. Is your sound pray against the national party? Lord, against the fascist and style. Lord. Bring the culture, eh? Bring the culture, eh? I bring the culture and the consciousness. I shall in a play and you feel no stress. Love. This is sound I gone international. I shall in a sound international. This is sound I gone international. Lord, have the mercy, mercy. I'm shamming on the party, party, party. Is your sound playing on radio style? Me follow, I'm a sinner, me follow this style. Me bring up me culture, me bring tonality. Been on the roots and the culture. The roots and the culture. Yes. Radici di Gramigna, sei. I shamming. On the play. Radio Plaza. Blue. Sì, ci sta tutta quella questione del perché uno lo fa e perché va avanti in questa cosa, e in sostanza io penso, come dicevo all'inizio, sicuramente perché ci piace, però anche perché, contestualizzando, Serena parlava dei contenuti e dei contorni della festa, ma come sound in realtà proviamo a contestualizzare i generi della musica che ci piace, cerchiamo di essere sempre spesso variopinti. Possono sembrare apparire delle volte anche selezioni scontate per una persona che ascolta spesso questo genere, ma non lo è così per le persone nel nostro territorio, perché spesso quando noi che abbiamo cominciato, ma immagino anche i compagni che lo fanno qua in Irpinia, in sostanza vengono sempre paragonati o al ragazzo che si vuole fare le casse ma per nerdismo, oppure paragonato al service, alla voglia di fare quello. In realtà non ne sei competente, perché al giorno d'oggi non si può fare service con un mixer autocostruito, con casse autocostruite, cioè stiamo parlando proprio di altri livelli di controllo che ci sono su quello che hai, dove l'autocostruzione purtroppo è bannata, non entra in questi sistemi, ed è il motivo del perché cerchiamo yard che non abbiano il palco. Non ci vuole molto egocentrismo per fare quello che facciamo, e spesso sta appunto nell'essere variopinto, perché troviamo situazioni dove un genere un po' più scaro, cabilli, può essere di contenuto, perché le persone fanno di a te sono una famiglia, casomai ignorante nel genere, ignorante nel senso buono, e gli piace, tipo un disco mix come questo che passa, e può piacere. E poi trovarti in situazioni dove probabilmente il barretto è da chiamato, ci stanno dei ragazzini, un OBF può essere la scelta giusta che puoi fare quella sera, e quindi cerchiamo sempre di non etichettarci così tanto, perché questo è il nostro modo per sperimentare, come appunto piantare semi in vari luoghi, vedere cosa ne esce, cercare di estrapolare un po' quello che può piacere a chi ci ha chiamato in primis, e a chi ci sta ascoltando, perché è venuto ad ascoltarci appunto. poi sempre sì, parlando, la genitorialità, ancora non ho imparato a dirlo, pensa tu, in questi casi da Soundboy com'è? In realtà è molto difficile, anche perché io penso che nell'ambiente festa si esclude un po' la famiglia, si esclude un po' il bambino, si è poco attenti al fatto che possa venire qualcuno che non ha bisogno di consumare sostanze in genere, poi quelle legali o illegali lo sceglie un politico, non noi, quindi in sostanza si è molto lontani e io spero col tempo, da genitore, mi viene sempre più voglia di creare contesti all'aperto e portare questo sound fuori dai contesti di ghetto e chiusi, perché l'amore è per tutti e siamo One Love Style, sì? Bye. Bini Boom, Come Back Again, perché ho fatto quando hanno libro, secondo me. E quindi il buon Bando qui ci stava domandando un po', insomma, le varie dinamiche che incontriamo quando si organizzano le cose. Come appunto diceva prima Serena, in alcuni contesti può sembrare semplice perché ci sono molti posti già predisposti alla festa, a come la intendiamo noi la festa, e quindi un sound è accettato, ti fanno spingere musica, puoi fare degli orari particolari, e in sostanza il posto già frequenta dei contesti politici e culturali che a te ti sono sensibili, e quindi è easy. Arrivi là con un furgone, scendi, monti le casse, fai la serata, la gente già lo frequenta il posto e vai. Noi l'abbiamo anche fatto, ci è capitato, ringraziamo sempre chi ci ospita, che abbiamo attraversato sia luoghi così a Napoli che a Salerno. Però mi va anche di raccontare poi come sono i non luoghi che viviamo noi, che dove difatti per cercare di emulare appunto queste cose tocca andare da agriturismi in via di fallimento, perché appunto non era fallito ma ci stava quasi, e andare direttamente da produttori per cercare di organizzare i bar, perché in sostanza noi quando facciamo una serata non ci fermiamo a pensare appunto a che disco metto e che disco non metto, ma anche a dove comprare la birra, perché la stai andando a comprare là e chi te la viene a servire quella birra. E anche poi se si parla, soprattutto e spesso nei nostri contesti si parla da mangiare, anche chi e che cosa ti fa mangiare, sono dei temi che noi soundboy siamo costretti ad affrontare, e questi possono sembrare anche un piacere, perché poi alla fine mangiamo e beviamo anche noi e siamo contenti che nelle nostre yard ci sia questo differenza, forse non a vista di tutti, ma ci sta se odori lo senti. E, ma la cosa poi più brutta è gestire tutte le burocrazie del caso, che spesso incombono spesso anche a noi, perché non ci sta chi ci crea dei contorni per poterli anticipare, e quindi, come dicevamo prima, auto-organizzazione pura al 100%, e nessuno ce la può sottrarre, non ci possiamo nemmeno far aiutare, perché dobbiamo elemosinare qualcosa, e quindi spesso combattiamo per trovarci le cose, come andare in luoghi appena aperti che facevano clubbing e siamo entrati lì semplicemente chiedendo la sala eventi, non vogliamo niente, dobbiamo provare il terzo pinzo che abbiamo fatto. Yes, Radici di Gramigna 6, siamo qui ancora in diretta su Radio Plaza con i nostri super ospiti Aishamina Sound System, family, part of family. To call, you've been Ritornando su quello che stavamo dicendo, quindi le nuove generazioni, questa domanda molto scomoda, perché secondo me a volte pensiamo che se l'altro sound parla male di noi, oppure non gli piacciono le nostre casse, oppure hai messo quel disco che io non l'avrei messo, e tutte le pippe mentali che noi del genere di solito ci facciamo dietro, avanti, sia la, diciamo, il rec, e sia da dietro e davanti le casse, perché siamo dei malati, no? Ce lo dobbiamo dire. E intendevo capire se sono vecchia, siamo vecchia, nuova generazione, perché giustamente, come dicevamo prima, quasi 10 anni sono passati. Bando diceva di essere diventato la sesta generazione, sa quando sarà la sesta generazione. E che cosa voglio dire. In realtà, al fatto che al giorno d'oggi è un po' più semplice anche in questo, anche l'autocostruzione. Questo forse fortunatamente avvantaggia anche noi, perché se vogliamo continuare a autocostruire questo sound al giorno d'oggi con internet, ma tutti i blog che ci sono che ti danno un po' di conoscenza su cosa vai a comprare, e soprattutto poi chi fa questo business, quindi i produttori di speaker, i produttori di componenti che noi poi ci piace acquistare per i nostri suoni, sperimentano veramente tanto, e quindi ad oggi l'accesso a queste cose è più semplice, quindi purtroppo diventa a volte anche solo una cosa economica, e la scelta non viene fatta tanto con un obiettivo, ma solo per mettere su quell'idea. Però un timbro a volte ha bisogno di tempo, e spero che noi in questi 10 anni un po' di timbro lo abbiamo messo oltre alle nostre serate sui vostri bracci, ma soprattutto nelle orecchie, e si sa casomai che tipo di mentalità e sonorità noi possiamo andare a ricercare, e per contribuire un po' a questa cultura generale dei sound, sia in termini di che cosa selezioniamo, ma in termini di come e in che cosa lo selezioniamo. Cosa vuol dire vecchie? Che è un termine che giustamente urta le sensibilità. E che cosa vuol dire nuove generazioni? Allora, cioè no, perché non è possibile. Wow, wow! Ehi, ehi, senti qual è la discussione? Donna Mese, senti? Tu senti nella radio, ma qual è la discussione? Il significato sì della generazione. E nella hit serene per pan, si bantu microphone, si stufate le a spiegare. E allora mo rubato, te canta una canzone, te senti in coppa ridissima, qual è la descrizione? E che te voglio dice che te song a raccontare, si no old generation diceva mo fra, si 30 anni fa erba pipa sa suonava, e si no ia salir nell'unico sound sa cumannava, e poi a roba si tant'anno sai in da città, si na Napoli c'è se va bruciata un famas, e venette la Scozia capellone sangue, ma c'è se veni da yard si baba bu mai fi, si a salirne si trovava Danny Kingston, si bantu microfono senta ancora Justin, e si in campagna si non sai che grossa connessione, si cerca lo sound fammi easy one stand ragazzi, ma fissa si scusa quindi old generation, capito com'era? Capito? Okay, quindi ci sono delle varie generazioni che giustamente hanno accumulato una storia che dura da 30 anni, 20 anni. Poi però, attenzione, perché ci sta qualcuno, sono pure quelli là che dicono, ma chi? Io Bantu, so veterano. O sai, se ti dico che faccio da 15 anni, e dico, ma sì, io sai di te, non mi sto ricordando. Eppure che la danza i mo sta ricordando, e allora che stai a di, Samboia, che stai a di, a pupa bando si bugia non ri, che stai a di, Samboia, ma che stai a di, si 15 anni si ingoppa Instagram, si 10 anni che si fa con danza, ma si na pupa bando si non ti ci bugia. no no no no, si non dice buci, caga niente, ambandata che sei propria vita a me. Si to dica roba dopo pure roga maffi, si to dice rinda dance, non c'è yamati gian. O sai non dici ma casi ma veteran, ma gente si to dice bando sei professional. Si canto roga maffi, si ma puro roba dopo, si io ca, si io faccia tanda. Ma si non to dica ca posso veteran, ca colango pari di si ca te so raccontan. Si chi è che sto stile si io faccia da dan dan. Blaite si to dice si ne aisha mina, mo ripete si matti e bando si ma come fa. Si microfono alla mano si tabbia racconta, si ne che se nata storia originale roba da brand. Tina, tell me another weekend story. Right. Tell me another weekend story. Quindi. Mo rispondi. E va bene, e quindi cosa diciamo a queste nuove generazioni? Voilà. Tutto prova a boicottare questa domanda. E quindi che dire a queste nuove generazioni? In realtà, come stavo dicendo prima, di non essere superficiali. Cioè, col vantaggio di avere tutto a disposizione e probabilmente anche una cosarella di soldi può fare, perché purtroppo ci vuole, e di non affrettarsi a volte nelle scelte, di non peccare di egocentrismo o di arrivismo, di non abusare a volte anche soprattutto delle fortune che uno può avere per poterlo fare. Poi appunto la questione economica è da sempre, cioè chi aveva i dischi in Giamaica era un benestante e chi andava a cantare lo faceva per pochi spicci a fine serata, semplicemente perché giustamente in quelle yard era affollata da persone che chi voleva sentire la musica e chi invece aveva bisogno di sfogarsi con la musica. E noi dobbiamo riprodurre questa cosa, secondo me, noi veterani o non veterani, nuova generazione o non nuova generazione, penso che dobbiamo farlo più per gli altri che per noi e per, in sostanza, per arricchirci, anche se è bello poterci vivere facendo sta cosa. Allora, come al solito, bentornati, salutiamo il partito che ci ha mandato il contro... Tutto a posto? No, io lo sto dicendo così, è tutto a posto, no, è vero. Lui sta mandando col tasto verde, verde, verde, io tutto bene. Volevi dire tu qualcosa? No, sì, volevo introdurre pure questa riflessione su quanto tutto questo sia storicamente determinato e mi auguro anche un po' determinante. Nel senso che le vecchie generazioni che conosciamo noi, quelle che Bantu ha nominato nel freestyle di prima, hanno vissuto una Napoli che non esiste più, in cui noi siamo nati, tra virgolette, sia come sound, sia come, diciamo, giovani individui, e ci siamo vissuti, come dire, la fine di quella storia. E nel diventare poi protagonisti di una nuova storia abbiamo un po' dovuto lasciare la metropoli per una serie di questioni storiche come la gentrificazione, che è un tema anche ricorrente in questa trasmissione, no? E che da un lato la cosa buona che ci ha fatto riappropriare in qualche modo delle nostre terre, della possibilità di pensarci più grandi di quelle quattro mura del centro storico della città. Però ecco. Vuoi dire qualcosa? Dici. Col microfono si inibiscono tutti. Comunque, insomma, questo che la nostra storia, se vogliamo, è la storia dell'emigrazione, dell'abbandono della città e quindi del tentare questa sfida del costruire una sound system culture fuori da quelle mura. Le nuovissime generazioni non lo so bene dove stanno, forse in un metaspazio virtuale in realtà, dove comunque ci si incontra e si fanno belle cose, però insomma sarebbe interessante magari, no Bantu, invitare anche qualche esponente delle nuove generazioni nelle prossime puntate. Sì, next stop Danny Kingston, nuovissime proprio. No, io pensavo più a Rob Son. No, no, anche Laio Steppa, sì, Lorenz, già sono stati tutti contattati. Quindi io. Piano piano facciamo tutti i podcast. Next, il bello della diretta qui a Radici di Gravigna su Radio Plaza. Got to hold on firm and try to find out, so don't mash Esperienza più bella ed esperienza più brutta. Questa è una cosa personale mia, non del collettivo Aishamina, mia proprio. Cominciamo dalla bella o dalla brutta? La bella, secondo me, è stato, e tu ne sei stato anche partecipe, fu il weekend, quello a Luppoleto. Il primissimo, quello che andavamo senza beats, senza niente, perché non so come spiegarvelo, passare 2 anni, aver comprato il preamp nuovo, tenerlo lì fermo, il sound montato, ma te lo stai godendo solo tu, e in particolar modo non l'avevo nemmeno goduto veramente con i compagni di Aishamina, e che la serata là, il fatto di essere funzionata e aver accolto diverse persone e aver dato la spinta a voler fare qualche altra cosa, per me è stato un'emozione bella, cioè nel senso, per me è bello quando le serate finiscono dicendo wow, nice, ma fa nata vuota, oppure dobbiamo continuare e in sostanza spingere su quella cosa, perché come dicevo all'inizio, molto fa parte dell'emulazione, quindi più facilmente una persona può vedere una cosa e più facilmente incontri qualcuno che gli piace e può contribuire a quel fatto, e per me è fondamentale in Irpinia, visto che non c'era nulla da emulare e vorremmo che qualcuno già ora ci emuli. Quindi vado ora alla più brutta, e la più brutta in realtà è stato l'ultimo weekend. Quindi come il primo, l'ultimo è stato molto molto brutto, perché abbiamo approcciato forse un po' la cosa con troppo business mentality. Eravamo entrati in quell'ottica di avere il festival con i token, avere il festival col booking, avere il festival che si poteva spingere ad avere qualcosa in più, quando poi alla fine quello che è servito per fare la festa già c'era stato gli altri anni, e tutta questa circostanza di economicizzare la festa l'ha impoverita, che un acquazzone se l'è portata via in totale realtà, perché è bastata una pioggia per mettere un po' in crisi tutto, per mettere in crisi quell'economia, perché poi giustamente, come immagini, una pioggia che ti sfascia un festival economicamente parlando ti sfascia anche poi i contributi che devi dare, alcune armonie, e lì un po' ho notato che delle volte si creano delle aspettative dietro all'economia, e tra di noi quando siamo amici queste cose sono difficili da organizzare. Mi sorprende che ci sia qualcuno che ci possa rimanere male, e visto che se una 100, una 200 euro può creare conflitto tra le persone, a volte penso che non è valsa la pena averlo fatto, e quindi un po' per quello mi crea tristezza, e per me è anche la più brutta, proprio perché poi non ho avuto più quello sprint di riproporre e rimettermi in quella carreggiata, seppure lo farò in maniera diversa con questa esperienza, no? Me younger than them, Me and God are fight them, me and God and them. Me and God are fight them, me and God and them. Me and God are fight them, me and God and them. The lion, the donkey, the ministers and the thieves. The dragon and the tiger, the eagle and the beast. General, major, captain, chief. Preachers, deacons, pastors and priests. The people them a bow down and I hear them plea. A long time now the people them a kneel down on them knee. You have them in a bondage and a captivity. Behold, you'll never live to control the children of the true and living God. Mercy, Lord! The children of the true and living God is like the tree that planted by the rivers of waters and shall not be removed and abide forever. Me and God are fight them, me and God and them. Me and God are fight them, me and God and them. Me and God are fight them, me and God and them. Me and God are fight them, me and God and them. Me and God are fight them, me and God and them. Me and God are fight them, me and God and them. Woe be unto all the backbiters and slanderers who think they could have piled up wealth that would last them forever. But oh no, they shall go down in a ball of fire. We're gonna love and live again. We're gonna love and live again. We're gonna love and live again. We're gonna love and live again. Say woe to the brother who has abandoned his pride and forgot his sister's needs. Me and God a fight them, me and God and them. Me and God a fight them, me and God and them. Me and God a fight them, me and God and them. Me and God a fight them, me and God and them. Me and God a fight them, me and God and them. Me and God a fight them, me and God and them. Me and God a fight them. The fight is not against flesh and blood, but spiritualness is an icon. Kill, cramp, and paralyze all weak and conception. Babylon kingdom must fall. And even the dog that piss up against your wall. Yeah, yeah, fino al Libano, perché alla fine bando quello va cercando. E parlando, continuando nei nostri racconti e ragionamenti che stiamo facendo qua, parlavamo di omologazioni del sound. Sound come strumento e struttura sonora soprattutto. E ricordavo la mia esperienza a Londra, dove ho sentito un po' di sound, c'era, che in realtà non so più se nemmeno lo fanno all'University of Dub in questo momento, penso che dopo la pandemia non vedo più pubblicare locandine, quindi o meno nel mio Facebook non invadono più queste cose. E in sostanza ho sentito dei sound come Channel One, che continua a mantenere un po' la sua linea e il suo sistema così come era e continua ad esserlo, ha più o meno sempre quel modo operandi e va avanti così, anche se in sostanza ultimamente ha avuto degli scompigli in groove, sono cambiati un po' gli MC, però noto un po' la yard che ha aperto Sinai e quello che smuove Sinai con quell'idea di impostazione nuova di sound system, e veterani come Abashandi, appunto, che ho ascoltato con il suo vecchio sound e vorrei ascoltare col nuovo, ma ho la sensazione che ci si stia spingendo sempre un po' più al suono nitido e preciso che possa essere un PA, piuttosto al suono rude e sporco che possa essere un sound system con le sue difficoltà, che come dicevo la semplicità dell'acquisto di componenti di un determinato modo porta pure alla facilità di essere super precisi, però in realtà a me non so se nella precisione ci sia qualcosa che mi piace. Tell me that you're looking for a superstar. difficulty financial plan. But don't really tell me that you love me, little girl, no. Don't even tell me that you care. 'Cause I've heard that song sing a thousand times. Each time you touch that purse, you upset my mind. Tell me that you're looking for a dance. Tell me that you're looking for a dance. Tell me that you're looking for a man to help you in your financial plan. Tell me that you're looking for a superstar. Tell me that you're looking for a superstar. Don't ever tell me, little girl, that you love me. That you love me. Don't ever tell me, little girl, that you want me. That you need me. So don't really tell me that you love me, little girl, no. Don't even tell me that you care, no. I've heard that song sing a million times. Each time you hitch that verse, you upset my mind. And I saw it go, no, and I saw it go. Viene linda danza no ya no. Thank you very much all people listening Independent Radio, Radio Plaza in my heart. Radici di Gramigna, last tunes. Jamaican style, Afro-Cambanian culture, sing. Hey, Batman. Hey Batman, tuo fo Batman. Ma quando viene rinta danza noia non c'è po' tocca. Perché non si Batman, ma non si Batman. E si ne rinta danza ye gramigna che sono po' fan. Non c'è piace ya pistola, non c'è piace a cortie. Quando viene rinta danza migna non è tarantel. Hey Batman, tuo fo Batman. Ma quando viene rinta danza noia non c'è po' tocca. Tuo fo Soundman, o tuo fo Batman. E si cu gramigna a competizione non c'è sta. Si ne canto roba dopo si da A fino alla Z. Quando faccio roga muffi canto tutto l'alfabeto. E sta c'è promesse spose gli adivini a commedia. Con gramigna si torna non può compet. Perché non si Batman, ma non si Batman. Ma quando viene rinta danza noia non c'è può tocca. Perché non si Batman, insieme a Batman. Ma si ne dinta Napoli e si ne sappiamo campa. Si sappiamo l'amicizia, si sappiamo dignità. Si sappiamo coscienza e pa vita come va. Non c'è manca coerenza ma mentalità. Si facciamo roba dove pure roots on colcia. E tu si Batman, ma non si Batman. Ma quando viene rinta danza noia non c'è può fa ma. Vieni con Sandman e si con Lampli. Ma noi e si to dica si non sai che non c'è tocchi in ciampi. Frate, sta roba trendy, paghi per quello che poi spendi. Arrigramigna si lo che tinto i denti. Sì? Senti, senti, o no? Perché si Batman, ma non si Batman. Ca quando viene rinta danza noia non ci può toccare. Perché si Batman, ma non si Batman. Cancia curtiele sinta coscia noia non ci può sparare. Perché quando sa maretta ya controllo io sai. Si me mortale se io stile non sei weekend e guai. E c'è fa mamma rinta vita pure si ci stanno guai. Ma insieme Batman, insieme Batman. Ma si marina danza runa rinna roots in colcia. E si non microfono rinta vita sa c'è che di. E si non copo microfono che te voglio contà. Che non so Batman e non si Batman, sì? Ehi, Batman, ma non si Batman. Ma quando viene rinta danza noia non c'è può toccare. Perché non si Batman, ma vuoi fo Batman. Se si ne questa roba da baccata son che racconta. Che non so Batman e non si Batman, sì, sì. Check one, check two, check three, sì. Hey, Batman!